Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Come Athos aveva previsto, il bastione era occupato soltanto da una dozzina di morti francesi e roccellesi. Signori, disse Athos, che aveva assunto il comando della spedizione, mentre Grimaud prepara la tavola, cominciamo a raccogliere fucili e cartucce. D'altronde possiamo discorrere anche durante il lavoro. Questi signori, aggiunse designando i cadaveri, non ci ascoltano. I quattro moschettieri si misero all'opera. Stavano terminando di caricare l'ultimo fucile quando Grimaud fece loro cenno che la colazione era servita. Athos rispose con un gesto di approvazione e indicò a Grimaud una specie di garitta dove questi capì che doveva mettersi di sentinella. Per mitigare la noia di starsene di fazione, Athos gli concesse di portarsi dietro un pane, due costolette e una bottiglia di vino. «E adesso a tavola!» disse Athos. I quattro amici sedettero per terra con le gambe incrociate come i turchi o come i sarti. «Ah!» disse D'Artagnan. «Adesso che non hai più timore di essere udito, spero che ci farai parte del tuo segreto, Athos. Spero di procurarvi nello stesso tempo piacere e gloria, signori», disse Athos. «Vi ho fatto fare una gradevole passeggiata. Ecco una colazione delle più succulente e 500 persone laggiù, come potete vedere attraverso le feritoie, che ci prendono per pazzi o per eroi, due categorie di imbecilli che si rassomigliano abbastanza». «Ma questo segreto?» domandò D'Artagnan. «Il segreto», disse Athos, «è che ho veduto Milady ieri sera». D'Artagnan stava portando il bicchiere alle labbra, ma a nome di Milady la mano gli tremò così forte che lo depose a terra per non versare il contenuto. «E dove?» «Circa a 2 leghe di qui, alla locanda del Colombier Rouge». «In tal caso», disse D'Artagnan, «sono perduto». «No, non ancora del tutto», riprese Athos, «perché a quest'ora deve aver lasciato le coste della Francia». D'Artagnan respirò. «Ma in fin dei conti», chiese Porthos, «chi diavolo è questa Milady?» «Una donna affascinante», disse Athos, centellinando un bicchiere di vino spumante, «una donna affascinante che ha avuto qualche bontà per il nostro amico D'Artagnan, il quale ha commesso verso di lei non so quale slealtà, di cui essa ha tentato di vendicarsi, ora è un mese, cercando di farlo uccidere a colpi di moschetto, e or sono 8 giorni tentando di avvelenarlo, e ieri chiedendo la sua testa al cardinale». «Cosa? Chiedendo la mia testa al cardinale?» gridò D'Artagnan, pallido di terrore. «Questo», disse Porthos, «è vero come il Vangelo, l'ho sentito con le mie orecchie, anch'io», confermò Aramis. «Allora», disse D'Artagnan, lasciando cadere le braccia scoraggiato, «è inutile lottare più a lungo. Tanto vale che mi faccia saltare le cervella e che tutto sia finito». «È l'ultima stupidaggine da commettere», disse Athos, «visto che è l'unica alla quale non ci sia rimedio». «Ma non riuscirò mai a scamparla», aggiunse D'Artagnan, «con simili nemici. Prima lo sconosciuto di Meung, poi De Vard, al quale ho dato 3 sciabolate, poi Milady, di cui ho scoperto il segreto, e infine il cardinale, al quale ho mandato a monte la vendetta». «Ebbene», disse Athos, «sono 4 in tutto, e anche noi siamo 4, 1 contro 1, per Dio! Se dobbiamo credere ai segnali che ci fa Grimaud, avremo a che fare con gente assai più numerosa. Che c'è, Grimaud? Considerando la gravità della circostanza, vi permetto di parlare, amico mio, ma siate laconico, vi prego. Cosa vedete? Una pattuglia. A quanti passi di distanza? 500. Bene, giusto il tempo di finire questo volatile e di bere un bicchiere di vino alla tua salute, D'Artagnan». Trangugiato il contenuto dei bicchieri che depose accanto a sé, Athos si alzò con noncuranza, prese il primo fucile che gli capitò e si accostò a una feritoia. Porthos, Aramis e D'Artagnan fecero altrettanto. Quanto a Grimaud, ricevette l'ordine di collocarsi dietro i quattro amici per ricaricare le armi. Dopo un istante si vide apparire la pattuglia. Seguiva una specie di stretto camminamento che metteva in comunicazione il bastione con la città. «Per Dio», disse Athos, «valeva proprio la pena di scomodarci per una ventina di cialtroni armati di zappe, di picconi e di pale. Bastava che Grimaud facesse loro segno di andarsene e sono convinto che ci avrebbero lasciato in pace». «Ne dubito», osservò D'Artagnan, «perché avanzano molto risoluti da questa parte. D'altronde, con gli zappatori, ci sono quattro soldati e un brigatiere armati di moschetto». «Perché non ci hanno veduti», disse Athos. «Francamente», disse Aramis, «vi confesso che mi ripugna sparare su quei poveri diavoli di borghesi». «Cattivo prete», osservò Porthos, «che ha compassione degli eretici». «In verità», riprese Athos, «Aramis ha ragione, vado ad avvertirli». «Ma cosa diavolo fate?» esclamò D'Artagnan. «Vi farete prendere a fucilate, mio caro!» Ma Athos non tenne in alcun conto l'avvertimento e, salito sulla breccia, il fucile in una mano, il cappello nell'altra, «Signori», disse rivolgendosi con un saluto cortese ai soldati e agli zappatori, quali, meravigliati della sua comparsa, si erano fermati a una cinquantina di passi dalla bastione, «signori, alcuni amici e io stiamo facendo colazione in questo bastione. Ora voi sapete che niente è più sgradevole che essere disturbati quando si fa colazione, pertanto vi preghiamo, se avete assolutamente qualcosa da fare qui, di aspettare che abbiamo finito il nostro pasto o di ripassare più tardi, a meno che non vi prenda il salutare desiderio di abbandonare il partito della ribellione e di venire a bere con noi alla salute del re di Francia». «Attento, Athos!» esclamò D'Artagnan. «Non vedi che ti prendono di mira?» «Sì, sì», disse Athos, «ma sono borghesi che sparano malissimo e non riusciranno a colpirmi». Difatti, in quel momento partirono quattro fucilate e le pallottole vennero a schiacciarsi intorno ad Athos senza che neppure una lo sfiorasse. Quasi contemporaneamente quattro altre fucilate risposero, ma meglio dirette di quelle degli assalitori, sicché tre soldati caddero stecchiti e uno degli zappatori rimase ferito. «Grimaud, un altro moschetto», disse Athos sempre sulla breccia. Grimaud obbedì all'istante. Dal canto loro i tre amici avevano caricato le armi. Seguì alla prima una seconda scarica. Il brigadiere e due zappatori caddero morti. Il resto del drappello prese la fuga. «Ricaricate le armi, Grimaud», ordinò Athos. «E noi, signori, ripigliamo la nostra colazione e continuiamo». «A che punto eravamo?» «Me lo ricordo», disse D'Artagnan, preoccupatissimo dell'itinerario che doveva seguire Milady. «È diretta in Inghilterra», rispose Athos. «A quale scopo?» «Allo scopo di assassinare o di far assassinare Buckingham». D'Artagnan uscì in un'esclamazione che dimostrava sorpresa e indignazione. «Ma è una cosa infame!» esclamò. «Oh, quanto a questo», disse Athos, «vi prego di credere che me ne importa pochissimo. Il duca è inglese, il duca combatte contro di noi, che lei faccia al duca ciò che vuole, me ne curo come di una bottiglia vuota». E Athos scaraventò a una quindicina di passi lontano da sé una bottiglia che aveva in mano, dopo averne travasato nel suo bicchiere fin l'ultima goccia. «Torneremo dopo sulla cosa», disse Athos, «se così vi piace. Ma quel che per il momento mi preoccupava di più, e sono certo che tu, D'Artagnan, mi capirai, era di riprendere a quella donna una specie di mandato in bianco da lei estorto al cardinale che l'autorizzava a sbarazzarsi impunemente di te e forse di noi». «Ma è proprio un demonio, quella creatura», disse Porthos, tendendo il suo piatto ad Aramis, che trinciava un pollo. «E questo mandato in bianco», disse D'Artagnan, «questo mandato in bianco è rimasto nelle sue mani?» «No, è passato nelle mie. Non dirò che sia stato senza fatica, diamine, perché mentirei, mio caro Athos, disse D'Artagnan. Non conto più le volte che vi debbo la vita. Allora, Athos, era per andare da lei che ci avete lasciato, chiese Aramis, per l'appunto. E tu hai questa lettera del cardinale, disse D'Artagnan. Eccola. E dalla tasca della casacca Athos trasse il prezioso foglio. D'Artagnan lo spiegò con un tremito della mano che non cercava neppure di dissimulare e lesse. Su mio ordine e per il bene dello Stato, il latore della presente ha fatto ciò che ha fatto. Richelieu, 5 dicembre 1627. Effettivamente, osservò Aramis, è una soluzione in piena regola. E cosa farà adesso? Domandò D'Artagnan. Ma, disse Athos, probabilmente scriverà al cardinale che un maledetto moschettiere di nome Athos le ha strappato di forza il salvacondotto. Nella stessa lettera gli darà il consiglio di sbarazzarsi, oltre che di lui, dei suoi due amici, Porthos e Aramis. Il cardinale ricorderà che sono quegli stessi uomini che incontra sempre sulla sua strada. Allora, una bella mattina, farà arrestare D'Artagnan e, perché non si annoi solo soletto, manderà anche noi a tenergli compagnia alla Bastiglia. Ma insomma, saltò su Porthos, mi sembra, mio caro, che i vostri scherzi siano un po' lugubri. Non scherzo, ribatté Athos. Sapete, aggiunse Porthos, che torcere il collo a quella dannata Milady sarebbe un peccato meno grave che torcerlo a questi poveri diavoli di ugonotti che non hanno mai commesso altri delitti fuori di quello di cantare in francese i salmi che noi cantiamo in latino. Ma giacché l'avevate in pugno, disse Porthos, perché non l'avete annegata, strangolata, impiccata? I morti soltanto non ritornano. Lo credete proprio, Porthos? Rispose il moschettiere con un cupo sorriso che solo D'Artagnan comprese. Ho un'idea, disse D'Artagnan. Sentiamo, disse le moschettieri. Allarmi! Strillò Grimaud. I giovanotti balzarono in piedi e corsero i fucili. Questa volta stava avanzando una piccola banda di 20 o 25 uomini. Non si trattava più di zappatori, bensì di soldati della guarnigione. E se tornassimo al campo, propose Porthos, mi pare che la partita sia disuguale. Impossibile? Per tre ragioni, rispose Athos. La prima, perché non abbiamo ancora terminata la colazione. La seconda, perché abbiamo ancora cose importanti da dirci. La terza, perché mancano ancora 10 minuti prima che sia trascorsa l'ora. D'accordo, disse Aramis. Dobbiamo però concretare un piano di battaglia. Facilissimo, rispose Athos. Non appena il nemico è alla portata dei moschetti, facciamo fuoco. Se continua ad avanzare, facciamo fuoco di nuovo. Facciamo fuoco finché abbiamo dei fucili carichi. Se quel che rimane della banda vuole tornare all'assalto, lasciamo gli assedianti scendere fin nel fossato. Poi rovesciamo loro sulla testa questa falda del muro che sta ancora in equilibrio per miracolo. Bravo! Esclamò Porthos. Decisamente, Athos, eravate nato per essere generale. E il cardinale, che si crede un grande uomo di guerra, è ben poca cosa in confronto a voi. Signori, disse Athos, niente sciupio di colpi, ve ne prego. Ognuno miri bene il suo uomo. Il mio ce l'ho, disse D'Artagnan. E io il mio, disse Porthos. E io idem, disse Aramis. Allora, fuoco, disse Athos. Vedrete che adesso ci invieranno un intero reggimento, disse Athos. Non penserete di tenere testa a un intero reggimento, disse Porthos. Perché no, rispose il moschettiere. Mi sento in vena e farei fronte a un esercito se soltanto avessimo avuto la precauzione di prenderci una dozzina di bottiglie in più. Vi assicuro che il tamburo si avvicina, osservò D'Artagnan. Lasciatelo avvicinarsi, disse Athos. C'è un quarto d'ora di cammino di qui alla città e di conseguenza dalla città a qui. È più di quanto ci occorre per decidere il nostro piano. Se ce ne andiamo di qui, non ritroveremo più un posto così adatto. Ed ecco appunto, signori, l'idea che mi viene. Su, dite, permettete che dia a Grimaud alcuni ordini indispensabili. Athos fece segno al servitore di accostarsi. Grimaud, disse Athos, additando i cadaveri che giacevano nel bastione, prenderete quei signori, li rizzerete contro il muro, metterete loro il cappello in testa e il fucile in mano. «Oh, grand'uomo!» esclamò D'Artagnan. «Ti capisco!» «Voi capite?» disse Porthos. «E tu, Grimaud, capisci?» domandò Aramis. Grimaud rispose affermativamente. «È tutto ciò che occorre!» continuò Athos. «Torniamo alla mia idea. Eppure vorrei capire», osservò Porthos. «È inutile». «Sì, sì, fuori l'idea di Athos», dissero contemporaneamente D'Artagnan e Aramis. «Questa milady, questa donna, questa miserabile, questo demonio, ha un cognato, a quanto mi avete detto, D'Artagnan, se non sbaglio». «Sì, lo conosco bene e credo anche che non abbia molta simpatia per la cognata». «Niente di male in questo», rispose Athos, «e tanto meglio se la detestasse». «Come si chiama questo cognato?» «Lord Winter». «Dov'è adesso?» «È ritornato a Londra alle prime voci della guerra». «Ebbene, ecco appunto l'uomo che ci occorre», disse Athos. «È lui che ci conviene avvertire. Gli faremo sapere che sua cognata sta per assassinare qualcuno e lo pregheremo di non perderla di vista. Ci sarà pure a Londra, lo spero, qualche carcere sul tipo delle Madelonnette o delle Filles Repenties. Fa chiudere lì dentro la cognata e siamo tranquilli». «Sì, ma da chi faremo portare le lettere a Tours e a Londra?» «Se non possiamo assentarci noi dal campo», disse Porthos, «i nostri servitori possono farlo». «Allarmi!» gridò D'Artagnan. «Vedo agitarsi laggiù dei punti neri e dei punti rossi. Ma cosa dicevate di un reggimento, Athos? È un vero esercito!» «Sì, davvero», disse Athos, «eccoli. Guardate un po' i sornioni che venivano senza tamburi né trombe». «Hai finito, Grimaud?» Grimaud accennò di sì e mostrò una dozzina di morti da lui collocati nelle pose più pittoresche, gli uni a porto d'arma, altri con l'aria di prendere la mira, altri con la spada in pugno. «Bravo!» commentò Athos. «Fa davvero onore alla tua fantasia». «In che modo?» disse Porthos. «Vorrei proprio capire». «Prima alziamo i tacchi», interruppe D'Artagnan. «Capirai dopo». «Ora», disse Athos, «non mi oppongo più alla ritirata. Abbiamo scommesso per un'ora e ci siamo rimasti un'ora e mezzo. Non c'è nulla da dire. Andiamo, signori, andiamo».